Hola, attenzione, camera 10, c'è qualcuno? Binario 10, copiato Antonio K. Ora, ora, ora, ora, ora. Beh, Antonio. Oh, buonasera. C'è Claudio, c'è tu. Buonasera, ha detto. Allora, com'è la situazione? Mi hanno cacciato da Murino, qui dentro. E già cooperato a mare. Oh, a mare si è andato. Capa, vedo il cucineva che non si può ghiacciare. Gappa, gappa, e lì, io ho finito di innaffiare. Mi sembra un po' di cosa fuori. Lascio fare un po', ceniamo. E poi, TV è tutto a posto. Caffa, io mi... cazzo, ho gremato da stamani, caldo da morire, più ha già fatto un bel di bombole, ha già consegnato, c'è da una parte e c'è dall'altra, perché questo qua l'uviglioro è andato in ferie, di chi c'è un rivenditore, quindi gli sto consegnando io, cazzo, stiamo lavorando noi e due travagliende. Cappa, ehi, dammi le date di Dina. Ah, beh, cappa, cappa. Ma sei senza processore, tu? Tocca quel pulsante sotto. Sì, basso di radio, ti sento più basso che sei. No, no, già veggia. Aspetta. Guarda a vedere adesso. Vedi che adesso va meglio. Devi toccare ogni tanto quell'interruttore che c'è sotto il 60, perché si inchiola, capito? Già lo so, già. Adesso dovrebbe andare un po' meglio, dai. Già va bene, già va bene. Io bene ti sto arrivando, sì? Oh, bomboletta. Segnale come più di 9. Cappa. Quante? 9, 10, 9, 20, quante? 9, 9, 10, oltre 9, 10 sei qua. Sì, già va bene, allora. Sono un po' che fatto, già va bene. Non si è sentito nessuno, cazzo, per amore questa frequenza, vabbè, io sto entrando poco, però vero e sento che è un po' morta. Ognuno ha a fare le sue cose, purtroppo è così, ma la sera già attendo io, non è un problema, quando la fa rimanere già te su chi su gozo, un Niagara su da tutto. No, non problema, sento, quelle sono cose per l'inverno, che ti scalda il colasson, allora tu, io ci sono 4:30 acceso, con l'alimentatore, e buh, vedete, è tutto spento, di solito accendo un po' anche gli altri radio, ci ho fatto troppo caldo. Scappa, no, io ogni tanto accendo per la cosa, hanno sempre funzione. Ah, si Budiadini, Gesù Cristo mio. No, no, troppo caldo, certo, c'è mia. Hai visto che lo sta facendo, per carità di Dio, che mamma mia. Beh, ma è il suo tempo, la pipì è il suo tempo, mica. Sì, lo so, però c'è un tasso di umidità allucinante, capito? Così ti crepa, perché c'è questo caldo, poi arriva il maestrale, abbassa la temperatura, adesso si nasce venerdì, c'è questa temperatura, poi da venerdì dice che cambia di nuovo, ma andiamo alla mare, ma come se ne andiamo a fanculo l'estate, eh? 4 mesi, noi, e siamo lì a settembre, 4 mesi, boh, vabbè, 15 e siamo lì a settembre. Lo so già. Stavo dicendo, è la cosa, la casa la sei riuscita a terminarla un po', sì. Tu, io non devo fare niente dentro casa, assolutamente. La casa era finita quando ce l'avevo fatto. Prendesi proprio da muri. Arredato, sì, ho finito di arredare, di piattare tutte le cose necessarie che servivano all'interno, tutto, ma anche all'esterno, già messo, piantato anche tutta la recinzione del giardino, la canapiamo tutti i giorni, sta già crescendo, e sto curando il giardino, basta, adesso sono tutto dentro, è tutta finita, tutta arredata, tutto a posto, tende, quadri, tutto. Primi giorni ero un po' in difficoltà perché stavo facendo un sacco di cose, ma adesso mi sto rilassando. Fai beh. Mi ricordo il primo periodo dei scendi di capo. Sì, io non so cosa mi devo fare, c'era estremamente. Ho finito il tratto, io volevo quindi di lì, fatto un lavoro tratto. Poi tutti i cosi, i pali, per estendere la roba, li ho fatti fare al fabbro, montati, messi i cordoni, c'erano un sacco di cose, sono da fare. L'altro giorno abbiamo messo la porta del cavello con il mio vicino di casa. Ancora ne ho da fare, lavoretti, però sono esternamente sta a posto. La porta ci vuole, sennò che andare in inverno, di centraleva. Diventa un casino, ci diventa. Sì, queste rifiniture così, capito, ma sono, ti ripeto, sono fesserie rispetto a come quando sono arrivato in alto mare. Tende, quadri, insomma, un sacco di cose, capito, un sacco di cose, piazzare, tutto da rivedere, rastrellare, fare, un sacco di cose, verniciare, anche verniciare un po' di cose. Adesso dai, mi sto rilassando, già va bene, tutto a posto. Una cosa è passato un tempo. La soffitta non ce l'hai più, no? Tutto ne è cavato. Oh, c'è finita la mia quella, non ti scherzare. C'ho ancora tubi di antenne, c'ho altro materiale, c'è un divanetto che non ho ancora portato perché non mi serve. Ci sono un po' di cose, dai, un po' di cose ancora. Quando c'era la settimana scorsa, io ho portato 2 tubi, li ho tutti puliti, già pronti, perché devo piazzare con l'altra antenna, quindi mi servivano. No, già, sì, c'è una roba ancora lì, da portare via, ma già rimane lì. No, vabbè, se la tua è la tua, forse, cioè, la prima tu hai dato la casa, ma quale te la sei tenuta tu alla fin fine? Sì, allora, intanto non è abitabile quella, non c'è abitabilità perché è come è piazzata come soffitta, capito? Quindi, va bene, c'è un posto anche qua, però lì ci sono cose, ma piano piano andiamo le porte via, intanto gli stava mettendo, no? Capa, ma quella lì tu non la tieni, cioè la terra è sempre o te la vendi? Non si può vendere quella, ancora che una soffitta, una mansarda, ma non c'è stanno imbarrati via. Sì, un po' diviso. Adesso vediamo cosa vuole fare mia figlia dell'altra cosa, dell'altra stanza che c'è grande nel Carverio. La roba l'ho messa tutta lì, quella insomma che mi serviva. Se la vuole finire, lì esce una dipendenza, capito? Esce un'altra camera, un'agrocoltura e un bagno. Capa, quello lì non deciderà cosa può fare. Però lo dice che una piccola metà di condominio forse te la fanno pagare o no, non è obbligatorio. Ma dove qua? No, là. No, non ci abito io qui, non parlo niente. Poi ti ripeto, quella lì non fa parte del condominio. È 10 piani, compresa la soffitta al palazzo, ma il condominio è conteggiato fino al 9 piano, capito? Quella non fa parte del condominio perché non ci abita nessuno, non c'è abitabilità. Quindi no. Siamo nel postiglio praticamente. Ho capito ora. Cappa cappa, così este. E Roberto, non si è sentito stamattina, sono passato in officina dove c'è entrato la stasera. No, non ho sentito la verità. Ho entrato più chitto e da voi si è avviato. No? E c'è ancora propagazione ancora. Adesso andiamo a pappare e poi vediamo. Dai Anto, allora ti sentiamo dopo, se ci sei, per il momento ti saluto, vado a preparare qualcosa per pappare e poi magari già lascio acceso, se c'è qualcuno entro, se non pazienza. Ciao Anto, grazie per il tuo chat. Tu ti ha mangiato? Sì, già mangiato tutto. Ciao mangiato, tutto a posto. Ciao Cracio, ci sentiamo. Ehi, ciao.